Cioè, siamo imbollito dei galline. Una settimana. Mi immagino a settembre. Senti che sigla, la verità a sentire. Senti le fughe, senti notti. Just won't work on you. Got my mojo working, buddy. Just won't work. I've been threatening dynamite, drink nothing, folks, but that is night. Back in Akazaka, where the brothers do the back and a women will be wacky. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I? It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing. C'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile. I don't come here, mama, I'm gonna start a reading saying you've been out boogie-woogie and there's something I don't understand. I want you to tell me, mama, who was that a while ago? Yes, when I come in. But I'm out on the road again. I'm on the road again. Whiskey 3. Eccoci pronti con no, non è vero, non siamo pronti. Allora Alessandro, prima di perderci in saluti e tutto, ma abbassi la cassa perché senti come fischia, senti che roba, ragazzi. Come ci dicevano qui, ci siamo fermati una settimana e ci siamo scordati un po' tutto come funziona, numerose difficoltà, tutto spostato. Poi qui in radio siamo reduci dall'Ostia Palusa, che intanto saluto e ringraziamo, è stata una manifestazione stupenda. E se non siete passati a trovarci, beh, siete un po' stupidini. Ok, Alessandro, come stai? Bene, sì, dopo la pausa della settimana scorsa siamo tornati con l'appuntamento di Whiskey Trip con il nostro blues e jazz alla grande. Pronti per un'altra seratona? Dai, sta carico pure Alessandro. Allora, senti, partiamo subito. Partiamo con un pezzo frizzante, così che si distacca un po' dalle nostre sonorità solite. Andiamo con un interessante crossover tra generi distanti, lo ska jazz, un jazz che mantiene le sue strutture, i suoi assolo, la sua complessità e forza, sulle ritmiche saltellanti del miglior ska che conoscete anche bene da queste parti. E allora ragazzi, facciamo subito due salti sulle note della New York Ska Jazz Ensemble con Guadalajara. Get down with your bad self. Wiggle! E in apertura avete potuto ascoltare la nostra nuova sigla realizzata da Antonio, davvero un ottimo lavoro. E passiamo subito a Stan Kenton. Stan Kenton che non è nero, ma è come stato... No, fermate, aspetta, spegni. Come non è nero? No, fermiamo tutto. No. Ma lo sai che dopo scomodiamo addirittura Martin Luther King? Tu che... Però aveva un nonno... Ma è forte. Ma assicuri. È fortissimo, è stato un grande pianista, compositore e band leader, veramente grande. E allora dai, da Alessandro Mefido, dai Ego Whiskey Drip, ragazzi. Stan Kenton ci ha lasciato nel 1979, era compositore, band leader, dirigeva la sua big band in giro per gli Stati Uniti. Lui era di Wichita nel Kansas. Ci ascoltiamo, lui non è nero, ma ci ascoltiamo una bellissima versione dal vivo di The Peanut Vendor, da un concerto del 72 a Londra. Questo pezzo, The Peanut Vendor, il titolo originale è El Manisero, il venditore di noccioline. Ed è una canzone composta da compositore cubano, Moisés Simons, su un tema popolare, sul tema dei venditori di noccioline. Ringrazio che ci dà qualcuno che finalmente pubblicamente spende due parole sulla categoria alla quale appartengo. Grazie Alessandro che fai queste informazioni. Sì, forse non tutti sanno che a Cuba i venditori di noccioline, no, sono serio, i venditori di noccioline, ma anche i venditori di, le venditrici di violette, di pane, quando informare i clienti, i passanti che stanno vendendo la loro merce, le loro cose, cantano delle canzoni, delle melodie. E infatti c'è la violetera, che è la venditrice di violette, e il paninero e il manisero, il venditore di noccioline. E questo compositore cubano ha ripreso questo tema popolare, ne ha fatto una canzone che è diventata un grande successo, e noi ce l'ascoltiamo nella versione big band di Stan Kenton dal vivo. Buon ascolto. Thank you. E allora eccoci qui ragazzi, muoviamo il bacino. Passami una nocciolina. Intanto sì, le noccioline, guarda, sono lì Alessandro. E niente, ci stavamo scatenando. Allora abbiamo pensato una cosa, che adesso vi passo un pezzo che rimane più o meno su queste sonorità. Non sento, no, ok, mi è tornato il background, mi spari. Quanti problemi ci abbiamo stasera, Alessandro? Allora, dopo sulla pagina Facebook pubblicheremo un elenco dei nostri problemi di stasera. E in più, sempre lì su www.facebook.com/whiskytrip, tutto attaccato, durante questo pezzo potete votare se uno andiamo avanti con la playlist che abbiamo preparato e tutto, seppure vi siete fatti trascinare da questi ritmi, facciamo selezione salsa, merengue, baciata, insomma. E poi il primo che chiama il numero di Radio Default vince un pacco di noccioline. Va bene, questa, vedi, questo mi piace perché dice anche il contatto con il pubblico. Allora vabbè, rimanendo dai un po' così, un po' latinos stasera, caro Alessandro, t'ho pescato una Ella Fitzgerald che in un pezzo live dove, vabbè, lei sappiamo che è la regina della tecnica dello scat singing, e qui ne dà una performance clamorosa, ragazzi. E allora su Radio Default ci spariamo One Not Somebody, Ella Fitzgerald. Huh? Oh, you don't know the blues? Okay. All right. She's

That's all, folks. Thank you so much. Ella Fitzgerald su Radio Default con Whiskey Trip. E sappiamo che Ella ha collaborato a lungo, molte volte, con Duke Ellington. E un altro che amava Duke Ellington era Michel Petrucciani, che Petrucciani amava Duke Ellington, noi amiamo Petrucciani. E lui suonava spesso un classico di Duke Ellington, che è Take the A Train, e in omaggio al maestro di Washington. E allora abbiamo una versione dal vivo travolgente di Take the A Train insieme a Anthony Jackson al basso 6 corde. E tra l'altro il musicista che ha inventato il basso a 6 corde, Anthony Jackson, e alla batteria Steve Gadd. E allora ci ascoltiamo Michel Petrucciani con Take the A Train in omaggio a Duke Ellington. Rieccoci, rieccoci ragazzi. Io Alessandro gli voglio bene. Quando mi tira fuori ste traccette dove mi suona Steve Gadd a sta maniera, io ecco, un po' mi emoziono come una studentessa di fronte al primo amore. Alessandro, addirittura, mamma mia, mi sono allargato, vabbè. E vabbè, niente, dai, quindi qui su queste sonorità continua a salire questa febbre a Radio Default. Allora dai, se prima abbiamo passato la nostra Ella, perché non passare anche un branino di Sarah Vaughan? Perché Alessandro? Perché no, dato che ci avviamo verso la prima ora della puntata e sorpresa nella seconda parte della puntata. Ah, sorpresa, quindi io volevo dire no, è sorpresa. Sorpresa, lo diremo dopo questo brano. No, non lo so, pensiamoci a questo punto, cioè non... Potremmo riservarcelo per la prossima puntata. Ciao, possiamo pure tenere per noi sta playlist, che ne so, ce ne andiamo giù al lago e se portiamo due birre, che ne so. È una buona idea. No, vabbè, dai, scherziamo, ve la passiamo, dai, stiamo a fare un po' gli stupidi, ma perché siamo presi da queste sonorità, e quindi niente, ragazzi, su Radio Default ci ascoltiamo l'immensa, la grande, la stratosferica Sarah Vaughan con Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name. No, I'm gonna treat you right. You give me fever, when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever through the night. Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." Won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give me fever. Oh, when you kiss them, fever if you live and learn. Burn. You give me fever. Sarah Vaughan con Fever, e salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori, e che sono e tanti. Antonio mi sta chiedendo una cosa: se mangio, se bevo. Il microfono è acceso, sì. Questa è una bella domanda. Comunque andiamo avanti con la trasmissione. Dopo Sarah Vaughan torniamo con Fats Waller. Fats Waller, ci ascoltiamo tre pezzi, uno dietro all'altro. Fats Waller l'abbiamo ascoltato in altre puntate, pianista, organista di straordinario talento, attivo ad Harlem, si sente tutto alla grande, attivo ad Harlem. Parliamo di Fats Waller. So che ti piace tanto. Ah, grande amico mio Fats Waller, lo sapevi? Sì, era di Lanuvio. Era di Lanuvio, e comunque non abbiamo detto che il pezzo di prima, Feva, è dedicata alle temperature all'interno della regia, insomma, di Radio Default. Siamo tutti un po' sudati, lucidi, è fantastico, ragazzi, peccato non possiate vederci. Fantastico. Fats Waller, che era veramente un grandissimo pianista, uno di quelli che proprio ti spettinano. Pianista e organista di straordinario talento, e attivo a Lanuvio, attivo ad Harlem tra gli anni 20 e 40, Harlem, centro storico della cultura e della musica nera. Ci ascoltiamo uno dietro l'altro, che sono tutti e tre bellissimi, The Shake of Arabi, Handful of Keys e Lulu is Back in Town. Buon ascolto con Fats Waller, e questi è davvero da fomentarsi con questi pezzi, davvero, davvero. Thank you. yet. Luna's back in town. My, my, my. Yes, yes, yes. Gotta throw a button on my vest, cause tonight I've got to look my best. Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere. Gotta shine my shoes, slick my hair. Got to get my soul bootin' there. Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my Harlem coquettes, Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall. And again, I might not get back home at all. Lulu's back in town, yeah. Sempre emozionante Fats Waller. Mamma mia, Alessandro, ti sei impegnato stasera, tocca dirlo. Sì, sì, grazie, grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Mamma mia, ragazzi. Allora, vabbè, niente, se ci vogliamo scatenare, scateniamoci prima della seconda parte. X, mistero, incognita. Viene bene con questa voce un po' misteriosa? No, mi guardano malissimo. E vabbè, ci torna a trovare un altro caro amico, Little Walter. Abbiamo già detto più volte di lui, ne diremo ancora perché parliamo sempre secondo il mio modesto parere, secondo il modesto parere di tanti, il miglior armonicista di sempre, colui che per primo nella storia si dice abbia amplificato l'armonica rendendola insomma un po' più elettrica. E allora pure di lui ci ascoltiamo un paio di pezzetti. Partiamo con Mellow Down Easy e poi proprio, ragazzi, ci sbracciamo, si balla qui a Radio Default con Tell Me Mama. E quindi per voi Little Walter. Jump here, you jump, jump there, you jump, jump, jump everywhere, then you mellow down easy, mellow down easy, you mellow down easy when you really want to blow your top, you shake, shake here, you shake, shake there, you shake, shake, shake everywhere, then you mellow down easy, Mellow down easy. You mellow down easy when you really wanna blow your top. L'amore è il potere più duraturo che vi sia al mondo. un giorno conquisteremo la libertà. Ma non solo per noi stessi. Tutti noi faremo talmente appello al vostro cuore e alla vostra coscienza che alla lunga conquisteremo voi e il vostro cuore. La nostra vittoria sarà una duplice vittoria. Chi può dubitare della verità di queste parole? I grandi capi militari del passato sono scomparsi e i loro imperi sono crollati e ridotti in cenere. Ma l'impero di Gesù, costruito solidamente e maestosamente sul fondamento dell'amore, cresce ancora. Possiamo noi nel XX secolo ascoltare e seguire le sue parole. Possiamo ancora vivere l'amore prima che sia troppo tardi. Beh, sulle parole toccanti del dottor Martin Luther King, vi svegliamo la sorpresa a questo punto, Alessandro? Mi fa segno di sì, mi fa segno di sì. Allora, vabbè, dai, annunciala su, lavora pure te, insomma, dai. La seconda puntata della seconda della parte della tredicesima la seconda parte della undicesima puntata di Whiskey Trip è uno speciale sulla scena free jazz, una scena che ha rivoluzionato il jazz a partire dagli anni 60 e dei suoi risvolti culturali e politici. Quindi dopo il discorso di Martin Luther King abbiamo una selezione dei protagonisti del free jazz a partire da... Ora lo diciamo. Intanto avvisiamo gli ascoltatori che il free jazz, per chi insomma non bazzica il genere, è quel genere che insomma a un orecchio poco attento sembra un po' caciara, però nel mentre potete mettere Radio Default a cannone e fingervi più intellettuali di quanto siete, che funziona sempre, insomma. Non siate voi stessi. Diciamo allora che il free jazz è una forma di jazz nata tra New York e Chicago tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, parallelamente al sorgere delle grandi battaglie razziali di appunto Martin Luther King e soprattutto Malcolm X. Il Black Power sarà sempre un marchio distintivo dei musicisti free. Il genere ha rivestito e riveste perciò una grande valenza sociale. E allora perché non iniziare con Free Jazz a Collective Improvisation, che è il sesto album inciso da Ornette Coleman, registrato nel dicembre del 60 e pubblicato dalla Atlantic Records nel 61. Il titolo del disco diede il nome all'allora nascente movimento free jazz. L'album contiene un doppio quartetto, uno per il canale destro ed uno per il canale sinistro. La sezione ritmica suona in contemporanea e sebbene ci siano successioni di assoli come da consuetudine nel jazz, si sono mischiati ad esecuzioni strumentali freeform. Da una parte della sezione fiati che spesso si tramutano in improvvisazioni selvagge. Si tratta di un'opera complessa, sicuramente di non facile assimilazione. L'unica lunga composizione presente è costituita da una serie di brevi fanfare dissonanti per fiati che servono come interludi tra un assolo e l'altro dei musicisti. È il primo disco LP a contenere una così lunga improvvisazione, circa 40 minuti, assolutamente inedita per i tempi. L'album è stato definito da Chris Kelsey nella sua recensione del disco su Allmusic, intitolata Free Jazz Subjective History, come uno dei 20 dischi essenziali del genere. L'opera servì come ispirazione e punto di partenza per lo sviluppo del movimento free e di enorme importanza per i successivi gruppi free jazz e per la registrazione di futuri album epocali. Quindi Alessandro, ti ascolto un attimo perché ti scomodo un attimo perché quello che stiamo dicendo è importante. Cioè, ti rendi conto, due quartetti, uno sul canale sinistro e uno sul canale destro. Allora dai, tu che c'hai, elencaci chi c'era sul canale sinistro, va. Dunque, sul canale sinistro ascolteremo niente meno che Ornette Coleman al sax alto, Don Cherry alla tromba pocket, Scott LaFaro al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria. E sul canale destro li sai a memoria? No, sicuramente no, ma vabbè, comprensibile, dai, li annuncio io, quindi niente poco di meno che Eric Dolphy, che so che ti piace tanto, amico mio, al clarinetto basso, Freddie Hubbard, immenso Freddie Hubbard, alla tromba, Charlie Haden al contrabbasso ed Ed Blackwell alla batteria. E quindi ragazzi, preparatevi un attimo, perché da questo capolavoro di avanguardia ascoltiamo un piccolo estratto della parte 1 incentrato sulla sessione del grandissimo Eric Dolphy. E quindi Ornette Coleman su Radio Default. Thank you. Ornette Coleman nella seconda parte della nostra puntata di Whiskey Trip, Blues e Jazz, solo andata su Radio Default. Ci stiamo viaggiando su sonorità free jazz, sonorità libere, sperimentali. E dopo Ornette Coleman passiamo a Albert Ayler. Anche Albert Ayler è stato un sassofonista e un compositore tra i protagonisti della scena free jazz e dell'avanguardia americana degli anni 60. Abbiamo scelto un pezzo dal disco Witches and Devils, un disco che Albert Ayler ha registrato nel 1964 in quartetto con tra gli altri la tromba Norman Howard. E il pezzo che ascoltiamo si chiama Saints, e sono davvero pochi musicisti capaci come Albert Taylor, come lui, capaci di far parlare il proprio strumento, di farlo davvero parlare. Albert Taylor, il suo sassofono veramente risplende dei pensieri, delle emozioni, delle inquietudini della sua anima, ma anche di una epoca intera. Albert Taylor aveva un fraseggio unico, un suono, un vibrato altamente emozionale, folle, quasi isterico, passava da esplosioni opposte. Un critico musicale ha scritto, Tom Jurek ha scritto in un articolo, Albert Taylor è capace di muoversi da un sussurro di grande tenerezza fino all'urlo che fa gelare il sangue nelle vene, ma suonando sempre in maniera naturale. E io credo, noi qui crediamo che davvero era un genio della musica, e ce l'ascoltiamo con questo pezzo da Witches and Devils, Saints, con Albert Ayler. Thank you. Musica mistica di Albert Taylor, davvero quasi una preghiera, questo Saints da Witches and Devil. E un altro mezzo pazzo del free jazz era Sun Ra. Sun Ra, il vero nome era Herman Paul Blount, e è stato un compositore, band leader, pianista, tastierista, poeta e anche filosofo americano. E ci ha lasciato nel 1993 e probabilmente tra i jazzisti è il più eccentrico e genialoide. Sun Ra sosteneva infatti di essere una creatura di natura angelica e di provenire da Saturno. E con la sua orchestra ha composto e suonato musica per moltissimi tipi di organico, da strumenti solisti alle big band, dal ragtime allo swing, dal bebop al free jazz più sdregolato, fino alla musica elettronica. La sua discografia è una delle più numerose del panorama dell'intera industria discografica. E ci ascoltiamo un pezzo da un disco del 1963 che si intitola When Angels Speak of Love, quando gli angeli parlano d'amore, un disco registrato a nome Sun Ra and His Mid-Science Orchestra, e un album che fa parte del suo periodo di libere sperimentazioni in campo free jazz. Il pezzo si chiama The Ecstasy of Being ed è un affascinante guazzabuglio di sassofoni, oboi, trombe, clarinetto basso, un pazzo delirio celeste, come era pazzo e geniale il nostro Sun Ra. Buon ascolto su Radio Default. Eccoci dopo questo viaggio del marziano saturniano, di dov'era Alessandro? Era di Saturno, Surra diceva. E vabbè, tutto può essere, non escludiamo niente stasera in questa puntata paranormale di Whisky Trip. E dopo, vabbè, dopo il grandissimo Surra, arriviamo a un suo amico, a un suo collega, a una figura molto vicina a lui. Parliamo di Pharaoh Sanders, che è nato come Pharrell Sanders. Inizia la sua carriera suonando il sax tenore in California ad Oakland, si trasferisce a New York nel 61 e lì suona appunto con Surra, da cui riceve il nome d'arte Pharaoh, in qualche caso indicato, vabbè, come altre pronunce, altre cose, vabbè, qui c'è un macello nei nostri appunti, diciamo, comunque, vabbè, insomma, il faraone, viva la sincerità, Alessandro. Perché San Ra, a partire dal nome, il nome Ra, il dio egiziano del sole, era fissato con la mitologia egiziana. Forse credeva di essere lui stesso una reincarnazione del dio Ra, e era un tipo interessante, insomma. Bene, tornando al nostro faraone, sale alla ribalta nel 65, anno in cui entra nella band di John Coltrane, iniziando a sperimentare con quella musica che successivamente sarà conosciuta come il free jazz. Sempre nel 65 registra con Train Ascension, opera manifesto del free jazz, oltre che Meditations. Partecipa nel 68 all'incisione di Communication, tutti questi titoli un po' così, Alessandro, eh? album della Jazz Composers Orchestra Association di Mike Mantler e della grandissima Carla Bley, una pianista eccezionale di cui parleremo più avanti, nel quale suona, usando e citando le parole di John Zorn, il più intenso e illuminante solo di sax tenore mai registrato. Ornette Coleman stesso lo proclama il miglior sax tenore al mondo, capito? Che numeri, ragazzi! E nel 69 poi, per la casa discografica Impulse, arriva il suo album di maggior successo, Karma, che riscosse particolare gradimento di pubblico grazie alla presenza del brano The Creator as a Master Plan, ripreso in seguito da numerosi artisti, Louis Armstrong su tutti. Pharoah Sanders è noto per il suo stile ricco di suoni violentissimi ed estremi e per l'utilizzo della tecnica Sheets of Sound. Ve lo proponiamo però stasera in un brano molto intimista, Kazuko, su Radio Default. Bye. Qualche secondo di buco, beh vabbè ragazzi, su queste tracce ci rilassiamo pure noi, poi ognuno ha i suoi mezzi e ce la stiamo godendo insomma qui sui divani di Radio Default, che è finita la traccia e ci siamo trovati col silenzio, poco professionale, vero Alessandro? Masticavoli, perché noi puntiamo al sentimento, diciamo. Sì, ci stiamo godendo questa atmosfera, questa bellissima musica insieme a voi. E dopo il faraone passiamo, che non siamo preparati, guarda, che passiamo. No, ce l'abbiamo. Abbiamo pensato a un pianista. Passiamo al pianoforte. Il pianista è anche lui. Siamo nella scena del free jazz, come il nostro speciale. Ma parliamo di Cecil Taylor, che era pianista e anche compositore, band leader e anche poeta. E Taylor aveva studiato, aveva fatto studi di pianoforte e di musica contemporanea al Conservatorio del New England, e univa al jazz anche una conoscenza della musica colta europea, e ha sviluppato uno stile originale molto personale, uno stile al pianoforte percussivo e atonale. Si è fatto male qualcuno? C'è stato una ansa, credo dal rumore, si pensa sia ceduta una sedia nell'altra sala. Spero che tu, ascoltatore, qui proprio alla radio non ti sia fatto malissimo e ti mandiamo un abbraccione. Succede di tutto a Radio Default. E parlavamo allora di passare al pianoforte di Cecil Taylor, e che univa il free jazz alla conoscenza della musica colta europea, con il suo stile, dicevamo, percussivo e atonale. Ma il pezzo che abbiamo scelto è un pezzo tratto dal suo primo disco, che è del 1956, è Jazz Advance, un disco per alcuni aspetti ancora legato all'eredità sonora del bebop, del post bebop. E il pezzo è Bamsha Swing, che è uno standard, infatti uno standard di scritto da Thelonious Monk e Denzil Best, il pezzo che apre il suo primo disco, che apre la carriera di questo grande musicista e pianista che era Cecil Taylor. E allora non ci rimane che ascoltarlo per continuare il nostro viaggio nel mondo del jazz qui da Whiskey Trip. Buon ascolto. Eccoci tornati, andiamo un po' di corsa, ultime tracce, siamo in chiusura per dobbiamo rispettare gli orari, come sapete dopo di noi c'è la replica della Santa Messa di domenica, quindi noi passiamo a Peter Brotzmann, che è un musicista tedesco, ha avuto una grande influenza sul free jazz europeo, proveniente dal movimento di Avanguardia Fluxus, è un sassofonista sperimentale che occasionalmente suona anche il clarinetto e il tarogatò. In particolare grazie a lui venne data nuova attenzione al sassofono basso, altrimenti impiegato di rado. Per il suo modo di suonare pronunciato ed energico è stato coniato nei circoli del free jazz l'aggettivo Brotzen, e sempre per i colleghi del free jazz il suo album Machine Gun è uno dei lavori più provocanti della storia jazz europea. E quindi vabbè ragazzi, dal suo capolavoro del 68, appunto Machine Gun, ci ascoltiamo Responsible su Radio Default. le sperimentazioni di Peter Brodsman qui su Radio Default. Siamo ormai a mezzanotte e ci avviamo verso la fine della puntata su queste sonorità molto particolari del free. E dopo Brodsman ci ascoltiamo Paul Bley, che è un pianista canadese che a soli 21 anni debutta nel mondo del jazz in un trio che vedeva niente meno che Charles Mingus al basso e Art Blakey alla batteria, direi due musicisti assolutamente di tutto rispetto per iniziare una carriera a 21 anni, davvero un grandissimo talento Paul Bley, questo pianista che in questi anni ha riscritto la storia del bebop verso nella direzione del free jazz. Da questo disco quindi ci ascoltiamo una traccia dal titolo When Will the Blues Leave. Che trio da sentisse male, raga. E vabbè, io sparo l'ultima cartuccia. Mi gioco. Anzi, prima di giocarmelo ve lo cito, vediamo se indovinate. Il mio compito di musicista è trasformare gli schemi tradizionali del jazz, rinnovarli e soprattutto migliorarli. In questo senso la musica può essere un mezzo capace di cambiare le idee della gente. Chi l'ha detto, Alessà? Lo so che sei stanca a quest'ora, però... John Coltrane. Wow. E allora arriviamo quindi ad Ascension, titolo di un album jazz pubblicato dall'etichetta Impulse nel 66, inciso nel 65 da Coltrane. È il disco che lo vede aderire completamente all'estetica del free jazz. Si tratta di un disco dall'assimilazione molto ostica, impegnativa. Anche dopo ripetuti ascolti, chi non è avvezzo a questo tipo di musica può avere la sensazione di stare ascoltando del semplice caos senza senso, anche se in verità tutto fu attentamente pianificato dal nostro caro John. Ascoltiamo quindi un estratto, purtroppo solo un estratto perché vabbè è lunghissimo, da questo che viene spesso considerato un album spartiacque nella discografia di Coltrane, essendo gli album precedenti più tradizionali nella struttura, mentre gli album successivi sono più sperimentali e improntati al free jazz. L'album inoltre testimonia l'esigenza da parte di Coltrane di suonare con un organico più ampio rispetto a quello del quartetto da lui utilizzato nei suoi precedenti lavori. Lo stesso titolo dell'album, Ascension, in italiano Ascensione, è emblematico nel definire il concetto di ricerca e scoperta musicale che sta, scusate, aiuto, sto morendo, alla base dell'opera. Un tirocinio spirituale che attraversa l'apparente caos organizzato, procura la perfezione interiore e il distacco dal mondo degli istinti. L'ascesi assoluta dell'artista. E va bene allora, John Coltrane, Ascension su Radio Default. Thank you. E nella strada che dall'art bop porta alle avanguardie incontriamo l'ultimo musicista con l'ultimo pezzo di questa nostra puntata di questa sera, e parlo di Roland Kirk, sassofonista, flautista, compositore e band leader dell'Ohio. E ci ascoltiamo dall'album del 1964, I Talk with the Spirits, nel quale Kirk suona il flauto. Ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Serenade to a Cuckoo, serenata al cuculo o al matto, se cuckoo anche il folle, il matto. E salutiamo tutti i nostri ascoltatori, vi ringraziamo di averci seguito anche in questa puntata. Ci vediamo il prossimo mercoledì e buon ascolto qui da Radio Default. Antonio è impegnato, ma anche lui vi saluta. È vero, dai, vengo a salutarvi e vi rinnovo l'invito a mercoledì prossimo, sperando che vi abbiamo visto presenti e numerosi stasera, quindi penso che siamo contenti noi e anche voi. E buon ascolto allora con Roland Kirk e al prossimo appuntamento. Woo!